In diretta su CRM Happy Radio Talk Talk, un programma di Rosy e Jerry. The Weeknd, Ben Westbeck. Eccoci qua, siamo tornate, siamo in diretta naturalmente sempre su CRM Happy Radio con Talk Talk, Talk. Eccoci qua. E allora direi di cominciare subito con il nostro appuntamento. Ah già, il nostro oroscopo. Esatto, uno dei nostri appuntamenti, perché noi ne abbiamo più di uno naturalmente. Dai, non ti vantare, Jerry. No, dico che abbiamo più di un appuntamento, lo ricordiamo ai nostri amici, giusto? Sì. Allora, cominciamo con l'Ariete. Vero? Sì. Dai, sono emozionata. Allora, molte cose si stanno muovendo intorno a voi, portandovi sulla soglia di grandi cambiamenti. La presenza benefica ed energica di Marte e Leone vi aiuterà a mettere in pratica le vostre idee, trasformando i vostri sogni in progetti concreti e realizzabili. Bene, l'Ariete. I sogni sono desideri chiusi in fondo al cuore. Che si realizzeranno prima o poi. Speriamo prima. Prima, certo. Toro. Probabili difficoltà in arrivo nel pomeriggio, contemporaneamente all'ingresso della luna nel segno dello scorpione. Qualche scemata di gelosia di troppo, subita o cercata, potrebbe compromettere il vostro rapporto con il partner, rendendo tutto pesante. Ai. Povero Toro, mannaggia. La vita è fatta di alti e bassi, dobbiamo sopportare. Capita. E allora cominciamo con le nostre richieste. Ci ha appena telefonato il nostro affezionatissimo Devo dire sì, radioascoltatore. Ogni giorno ci chiama, ogni volta che siamo in diretta, quindi ci direi molto sempre affezionato. Rambo, che salutiamo, ciao. Una bella canzone di Michele Zarrillo. Ha richiesto Una rosa blu. Una rosa blu sulla pelle tua, mi ricordi Londra snob e bionda con un filo di follia. Dicono di te, pare che ci stai, che ti scaldi presto, che poi tutto il resto e non ti leghi mai. Ma se fossi mia, io ti legherei con un lancio al cuore che ti faccia male quando te ne vai. Io sulla pelle io te lo scriverei, che mi piaci perché sei come sei. Tatuaggio con quella rosa blu, che è il tuo coraggio e la tua risorsa in più. E ti racconto di me, di lei, ma chi se ne frega, ma sì, doveva andare così. E non mi accorgo nemmeno che vuol dire ti amo, che si è aperta di più la rosa sul tuo seno. Una rosa blu un po' perversa, come un po' diversa è la tua fantasia. Una rosa blu come non ce n'è, ma una cosa rara sono io stasera che la chiedo a te. Io sulla pelle io me lo scriverei, l'amore in macchina non c'è magia, un tatuaggio perché va dove vai, al mare o dove si può purché scappare via. E mi racconto di te, di lei, ma chi se ne frega, ma sì, doveva andare così. E non mi accorgo nemmeno che ti ho detto ti amo, quando s'apre di più sul seno la tua rosa blu. Se fossi mia ti legherei, ma un lancio al cuore non ci sei. Al mare dove c'eri tu, mi punge la tua rosa blu, dolce un po' per blu, questa è la richiesta da parte di Rambo, che salutiamo. Ciao Rambo. Ciao ciao ciao. Bene bene bene. E noi sotto le note di ancora una rosa blu continuiamo col nostro oroscopo. Che prima, dici, Jerry? Prima però dobbiamo salutare due amiche. Già, giusto, che le ci nostre seguono due amiche da Termini Imerese, Daniela e Chiara. Ciao ciao ciao, buon lavoro, stanno lavorando, quindi buon lavoro ragazze. E andiamo avanti con il nostro oroscopo con i gemelli. Nettuno si trova in aspetto armonico nel segno amico dell'acquario e vi spiana la strada e rende possibile la realizzazione di alcuni sogni che fino a pochissimo tempo fa sembravano veramente impossibili. Non soltanto da realizzare, ma perfino da fare. Ah. Oh, sempre mi viene a dire i sogni sono desideri chiusi sì. In fondo al cuore. Cancro. Venere e la Luna in Scorpione sono stimoli potenti a viaggiare con la fantasia verso lidi sereni e romantici. L'amore è a un punto di svolta. Favoriti come siete dalle correnti astrali, non potete permettervi di lasciarvi sfuggire delle occasioni così ghiotte. Ci sta. Ci sta. Carpe diem. Carpe diem, esatto. Cogliete l'attimo, mi raccomando. Sempre e comunque dobbiamo cogliere il nostro attimo. Esattamente. Allora andiamo avanti con la prossima canzone in programma per oggi. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Ma che bella. Dici se facciamo CeeLo Green? Sì, dai. Vai, vai. Mettiamo questa che è bella, energica, ci dà la carica giusta per affrontare questa giornata un po' uggiosa. Pochino. Che tristezza. No, quando mai? No, assolutissimamente no. Secondo me i nostri radioascoltatori CRMini, nonché? Sì. Questa giornata così brutta mette tristezza. Però ci siamo noi, ci Rosy siamo e Jerry, per allegrare, ad allegrare questa bellissima giornata. E allora andiamo ad ascoltare i CeeLo Green con Bright Lights, Bigger City. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's al

con i Subsonica per un'ora d'amore. Cosa daresti un'ora... tu per un'ora d'amore, Joeri? Per un'ora Joeri? D'amore cosa si farebbe? Bah! Chissà. E andiamo avanti con il nostro oroscopo, con il segno del leone. Stai attenta. Ecco, cortesemente fammi concentrare perché è il mio segno e ecco. Ci tengo a sapere... Bene, la per situation. Per segno cosa dice? Ovviamente. Giusto. Leoncini, miei colleghi, stiamo attenti. Allora, Marte nel segno vi procurerà molti divertimenti, porgendoveli su di un piatto d'argento. In questo momento avete bisogno e voglia di festeggiare, di liberarvi dalle fatiche del quotidiano e di trascorrere momenti di puro relax insieme ai vostri cari amici. Già, è vero. Ho proprio bisogno di divertirmi e di stare in compagnia di persone a cui voglio bene. Giusto. È vero. Vero, allora. Allora ci ha azzeccato lo scopo. Facciamo finta di sì. Ci ha azzeccato. Prossimo segno. Per quanto riguarda la Vergine, il grande affollamento di pianeti nel segno amico dello Scorpione vi galvanizza e vi rende protagonisti assoluti della giornata. Sarete affascinanti senza essere presuntuosi, simpatici senza essere impertinenti, brillanti senza mai perdere il senso del limite. Hai capito la Vergine? Che, secondo me invece questa è presunzione allo stato puro. Ai ai ai, guarda la Vergine come se la... Basta, vabbè. Andiamo avanti. Andiamo ad accontentare? Sì, facciamo una richiesta dedica, dai, alla fine sì. Si può fare ogni tanto. La nostra amica Patrizia. Sì, e mettiamo questa canzoncina sì. Che adesso fra poco sentirete anche per una persona delle montagne, per una certa Angela. Quindi con una canzone accontentiamo due nostre radioascoltatrici. Sì, perché siamo sicure che piacerà questa canzone ad entrambe le persone. Certo, Alessandra Amoroso, Urlo e non mi senti. Tornerò meno fragile. Resterò alla finestra mentre un altro giorno passa in fretta. Resta lì pure in silenzio, giudica. Sparirò come pioggia nella sabbia. Brillerò tra le stelle, chiudi gli occhi e riuscirò a toccarmi. Dicono che non si può a volte poi mi cerchi tra la gente. chiedermi perché urlo ma tu non mi senti. Alessandra Amoroso con Urlo e non mi senti. Questa era la richiesta da parte di Patrizia da Cefalù e da Angela da San Mauro. Quindi con una canzone abbiamo accontentato. Richiesta dedica, barra dedica, dai. Richiesta barra dedica, ok. Sento una bella musica in sottofondo. Sì, perché a proposito di quella canzone, sì, io ho trovato una cosina bellissima su internet, sì, il nostro solito aforismo, ogni tanto ogni sai tanto che viene abbiamo quei momenti, quel momento serietà, e la musica diciamo che lo conduce questo nostro momento serietà, lo porta verso qualcosa di ufficioso. Sì. Senti cosa ho trovato. Sentiamo, sentiamo. Ci sono dei momenti in cui non fa bene pensare. Più ci rifletti e più ti sembra folle. Più cerchi di trovare la via e più ti appare come labirinto. Più tenti di arrivare al nodo problematico, più i fili della ragione si aggrovigliano, ti si attorcigliano intorno. Sono quei momenti in cui devi fare una sola cosa. Agire d'istinto, non pensarci più. Decidi, agisci, corri, dillo, fallo. Ti piace? Bellissima, molto bella. Sicuramente sarà piaciuta tantissimo anche ai nostri amici radioascoltatori. Questo è il nostro momento sentimentale, momento certo, serio. Perché essere felici non significa che tutto deve essere perfetto. Significa di aver deciso di guardare oltre le imperfezioni. Eh sì, è proprio vero. Momento filosofia. momento serio, ecco, questo è il nostro momento serio. Sì. Lanciamo ogni tanto delle chicche. Dura poco in effetti, però lo facciamo durare, dai, sì, cioè lo utilizziamo. Esatto, spero sia piaciuto, ma sono sicura di sì. Adesso passiamo ad ascoltare la prossima canzone, gli Oasis con Angel Child. Thank you. programma che bussa alle vostre porte per tenervi compagnia. Piangerai come pioggia, tu piangerai e te ne andrai come le foglie col vento d'autunno. Triste tu te ne andrai, certa che mai ti perdonerai, ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, arriverà una frase, una luna di quelle che poi ti alla volta in cui ti ho detto no, non ti lascerò mai. Poi di colpo il buio intorno a noi, ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Arriverà, e sì, arriverà il momento dello scorpione, no, dello scorpione, della bilancia. Si è confusa, però io prima volevo fare un saluto. Sì, sì, sì, sì. Su Facebook ci ha contattato un nostro radioascoltatore, sì. Aldo, che ci segue da Pignataro Maggiore in provincia di Caserta. Bene, ciao Aldo. Noi vogliamo salutarlo. Ciao Aldo. Ciao. Bene, fatto, abbiamo fatto. Speriamo che sei del segno della bilancia, così ti leggiamo pure l'oroscopo. Faccelo sapere Aldo di che segno sei. Esatto. Scrivici. Bilancia. Dopo una mattinata da leoni, passerete il resto della giornata a fare sogni ad occhi aperti. Nettuno, in aspetto armonico nel segno amico dell'acquario, vi invita in effetti a lasciare libera la fantasia, ma fate attenzione a non trascurare troppo la realtà. Quindi state sempre con i piedi per terra, bilancia. Scorpione. Nella seconda parte della giornata la luna entrerà nel vostro segno. Gioia e giubilo. Finalmente tutte le tensioni verranno dissipate e lasceranno spazio alla serenità. Durante la mattinata però dovevate stare attenti a non arrabbiarvi. Marte il leone vi rende ancora nervosi. Ai, nervosetti. È inutile, il leone porta rabbia. Ovunque, quando si parla di leone si parla di aggressività, si parla già di ira. Tu ne sai qualcosa, vero? Sì,

che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta. Accettami e vedrai, andremo fino in fondo. Non pensare a cosa è giusto e cosa sta cambiando. Andiamo al polo nord o al sud se preferisci. Accettami, ti prego, dimmi che ci riesci. Non ho detto mai di essere perfetto. Se vuoi ti aiuto io a scoprire ogni mio difetto. Se ne trovi di più ancora mi sta bene. Basta che restiamo ancora così insieme. Amo, amo qualcosa che si muove su e giù per lo stomaco più freddo della neve. Amo, amo al buco alla ciambella. La sua dolcezza effimera la rende così bella. Accettami e vedrai, insieme cresceremo. Qualche metro in più e il cielo toccheremo. Più alti dei giganti, più forti di Godzilla. Faremo una crociera su una nave tutta gialla. Andremo su un'isola che sembra disegnata, con colori enormi e un mare da sfilata. Per quanto mi guarda, ho fatto già il biglietto. Ti prego non lasciarlo accanto a un sogno in un cassetto. Amo, amo qualcosa di speciale. Su e giù per lo stomaco è come un temporale. Amo, amo è il sugo sulla pasta. Finché non è finito non saprò mai dire basta. Amo, amo è un dono di natura. Perché la nostra storia non è solo un'avventura. Amo, amo una semplice canzone. E serve a me per dirti che sei una sognione. Radio Toc Toc, un programma di Rosy e Jerry. For the broken hearted, no silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my Yeah. John Bon Jovi con It's My Life. Siamo sempre qui in diretta su CRM Happy Radio all'interno di Tok Tok, naturalmente in compagnia di Jerry e Rosy. Eccoci qua, continuiamo con il nostro oroscopo. Sì, cosa continuiamo c'è? Con il bellissimo acquario. Sì, aspetta che mi metto comoda così lo ascolto bene. Apri bene, bene le orecchie, elefantina. Sì. Grazie. Vi aspetta una giornata effervescente, wow, sostenuta dai favorevoli influssi della luna in bilancia. In campo economico in particolare potrete concedervi finalmente qualche piccolo sfizio e farvi anche dei piccoli regali, senza poi sentirvi troppo in colpa. Bene, io ci avevo pensato in effetti, quindi mi sai che posso fare qualche spesuccia. Hai visto, avevi pensato di fare shopping? Sì, e l'oroscopo ti dà il permesso. Bene, grazie oroscopo. Andiamo avanti col segno del pesci. Ultimo. I pianeti nel segno amico dello scorpione vi proteggono, ma è il momento di chiarire una volta per tutte che non dovete attendere la manna dal cielo, ma piuttosto darvi da fare. Rimboccarvi le maniche e lavorare per creare dalle basi il vostro successo. Avete capito, pesciolini? Quindi rimboccatevi le maniche. Le manine. Le manine, le manichine e mettetevi al lavoro. Bene, bene, bene. Continuiamo con le richieste. Sì, oggi siamo piene. Piene piene. L'abbiamo detto e continuiamo a dirlo. Esatto. Andiamo ad accontentare la nostra radioascoltatrice Maria, che voleva appunto sentire una bella canzone. Andiamo un po' indietro nel tempo. Ma molto indietro. Molto nel indietro. Tempo. E andiamo ad ascoltare allora i Cugini di Campagna con Anima Mia. Nudi per la strada. Mi vide come un'ombra, mi seguì col viso in alto di chi il mondo sfida e tiene ai piedi un uomo con un sì. Nel cuore aveva un volo di gabbiani, ma un corpo di chi ha detto troppi sì. Negli occhi la paura del domani, come un ragazzo me ne innamorai. La notte lei dormiva sul mio petto, sentivo il suo respiro su di me. Sapore qui con me. Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò, dovessi odiare queste mura. Anima mia, nella stanza tua c'è ancora. Campagna, anima mia, questa era la richiesta da parte di Maria, che salutiamo. Ciao Maria. Ciao. Bella questa canzone. Sì, bellissima. Un po' indietro nel tempo, però sempre bello ascoltare. Vabbè, ogni tanto fa bene. Allora, specialmente per noi giovincelle, sì. Vi ricordo che lunedì 31 ottobre 2011, naturalmente, a partire dalle 17 fino alle 18.30 circa, CRMP Radio, quindi noi, saremo in diretta con il programma On The Road, condotto da Roby D'Antoni, dal supermercato PAM di Cefalù, in occasione dell'estrazione del biglietto vincente del concorso organizzato per i clienti del supermercato PAM Ferdico di via Cirincione a Cefalù. Wow! Capito? E poi, ricordo un altro appuntamento. Un altro appuntamento, sì. Mangia italiano e vivi meglio, manifestazione che si svolgerà a Cefalù a partire dal 28 ottobre fino all'1 novembre 2011 e naturalmente CRM sarà in diretta da Piazza Duomo a partire dalle 19 fino alle 22 ogni sera, quindi non perdete questi appuntamenti, va bene? Non mancheranno, sì, i nostri CRMini di fiducia non mancheranno, ne sono sicura. Sicuramente. Continuiamo con le richieste. Andiamo ad accontentare un'altra nostra amica, Patti. Oggi tutto Patti, Pattizia, Patti. Si chiama il mondo di Patti oggi. Sempre il mondo di Patti. Ci ha richiesto Bella, una bella canzone. Io adoro Giorgia, io adoro, sì, quasi tutta la musica italiana. L'avevamo capito, sì, Jerry. Sì, anche quella straniera, devo dire. Giorgia, di Sole ed Azzurro. Voglio parlare al tuo cuore, leggera come la neve, anche i silenzi lo sai, hanno parole. di sole d'azzurro. Baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, I'm better, yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bougie bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Con Rain Over Me, bella, allegra, grintosa, ci mette la carica giusta per proseguire con il nostro programma. Ogni tanto ci vuole un po' di grinta. E certo, se no un po' di adrenalina. Giusto, giusto. Intanto vi ricordo che fra pochissimo, fra pochi minuti, ci sarà il nostro appuntamento con il Cinema Time, due colonne sonore, due film. Che poi adesso vi sveleremo. Sì, dopo li sveliamo dopo. Sì. Lasciamo ci sempre un po' di suspense. Esatto. No, suspense. Alla francese, mais oui. Sì. E per il resto noi dobbiamo fare anche un'altra cosina. Cosa? Il nostro radioascoltatore Pasquale. Ah, Pasquale. Ha richiamato facendoci un'altra richiesta. Cosa voleva sono? Dedicare a sua moglie Rosa. Sì? Lo sai quale canzone? No, dimmi. Margherita. Ah, bene. Tra i fiori ci si capisce. Certamente, come no? Quindi noi dobbiamo per forza accontentare il nostro radioascoltatore, ma giusto? Ci mancherebbe. Quindi di nuovo Pasquale dedica a sua moglie Rosa di Riccardo Cocciante Margherita.

Diverte. Don't stop the party. Don't stop the party. The party. The party. Va bene uguale, non Black fermiamo. Dai, dai. E allora siamo arrivati al nostro Toc Toc Cinema Time. Al nostro appuntamento. Oggi abbiamo scelto Salvatore, questa è la vita, con colonna sonora di Laura Pausini, Come il sole all'improvviso, che in realtà era una canzone di Zucchero, dobbiamo precisare. Precisiamo. Era una canzone di Zucchero che Laura Pausini, facendo tutta una cover, un album pieno di cover, ha introdotto, e il film bene ha scelto la canzone di Laura Pausini come colonna sonora. Va bene, ok, andiamo avanti. Era una piccola parentesi. Sì. E poi abbiamo scelto La febbre del sabato sera come colonna sonora, naturalmente i Bee Gees con Stayin' Alive e Night Fever. Allora cominciamo subito con il film Salvatore. No, cominciamo con quello in inglese, pardon. Con La febbre del sabato sera andiamo ad ascoltare i Bee Gees con Stayin' Alive. Thank you. Boys con Staying Alive, una delle colonne sonore del film La febbre del sabato sera, e l'altra è Night Fever, naturalmente, che adesso andremo ad ascoltare anche di sottofondo. Eccola. Allora, La febbre del sabato sera è un film musicale del 1977, diretto da John Badham con John Travolta e Karen Lynn Gurney. Il film racconta la vita della generazione negli anni 70 dal punto di vista di Tony Manero, un ragazzo di origine italiana che vive in un sobborgo di New York, immaturo, superficiale e razzista. Lavora in un negozio di ferramenta e frequenta un gruppo di amici connazionali con cui compie bravate, risse e altro ancora. La voglia di vivere di Tony è anche sfoggiare il suo talento in ballo in discoteca. Nella scuola di ballo che lui frequenta, conosce Stephanie, anche lei una italo-americana istruita, matura però. Nonostante le differenze, i due si avvicinano, si frequentano soprattutto per partecipare al concorso di danza indetto dalla discoteca che Tony frequenta. Tra mille difficoltà, Stephanie e Tony riusciranno a partecipare al concorso. Ricordiamo che lui veste un completo bianco, pantaloni a zampa di elefante e camicia scura. Sì, questo standard, proprio... la famosa. Sì. Riusciranno entrambi a strappare la vittoria ad una meritevole coppia portoricana, ma Tony rifiuta il premio perché quello che in realtà voleva era il cuore di Stephanie. Sì. Che però rifiuta Stephanie, il loro amore non è coronato. E dopo il ballo Tony e gli amici, ormai ubriachi, combinano una bravata, una delle solite, facendo acrobazie sul ponte, ma a farne le spese è il giovanissimo del gruppo, Bobby. La tragedia porta il protagonista a rivedere il suo atteggiamento superficiale con la vita, abbandonando quindi il gruppo e recandosi in metropolitana a Manhattan per scusarsi con Stephanie. Vedi, dalle brutte esperienze poi ci si ricrede. Certo. E si impara. Per fortuna, e meno male. E allora noi continuiamo ad ascoltare questa colonna sonora, sì, di questo film, lasciamola... sempre Bee Gees, Night Fever, e poi andrà in con dopo e di seguito Come il sole all'improvviso di Laura Pausini. Giusto. Io cammino Come il sole all'improvviso, questa è la colonna sonora del film Salvatore, questa è la vita. È un film del 2006 di Giampaolo Cugno con Gabriele Lavia, Lucia Sardo, ambientato in un paesino della Sicilia, a Pachino, in provincia di Siracusa, e nel film figurano come comparse molti abitanti del luogo. Un giovane insegnante romano, Marco Brioni, accetta l'incarico annuale in una scuola elementare in Sicilia. Giunto nel paesino, Marco conosce il piccolo Salvatore, un bambino rimasto orfano di entrambi i genitori, che provvede al sostentamento della nonna Maria e della sorellina Mariuccia, andando a pesca e lavorando nella serra di pomodori che era di suo padre. Salvatore non ha tempo per frequentare la scuola. Così Marco decide di fare lezione a domicilio. Col tempo i due diventano inseparabili. Salvatore vede nel maestro il padre che non ha più, mentre Marco è interessato e affascinato dalla spontaneità che il bambino conserva nonostante la dura realtà in cui vive. Purtroppo il legame tra Marco e Salvatore non è ben visto dall'assistente sociale, che non lo ritiene abbastanza fermo per essere un buon educatore. L'insegnante, per porre rimedio alla situazione, decide di tornare a Roma, ma il richiamo verso la piccola casa in riva al mare è sempre molto forte. Infatti continuerà ad occuparsi di Salvatore e Salvatore prenderà a cuore questo suo maestro, che lo aiuterà e aiuterà tutta la famiglia di Salvatore. Bello, un bel film. Sì, è un bel film da guardare, da vedere. Lo consigliamo. Molto significativo e direi molto toccante. Bene, bene. Bello. Anche per oggi abbiamo concluso il nostro appuntamento con il Cinema Time. Naturalmente lo ritroveremo venerdì e adesso andiamo ad ascoltare adesso la prossima canzone. Sì, passiamo con una canzone molto bella, direi. Direi di sì. Céline Dion, I'm Alive. I get wings to fly. Oh, I'm alive. Oh, Sognare questa canzone, proprio bella. Vabbè, Celine Dion. Sì, sì. E ascolta. Oh, la nostra sigla è arrivata, la sigla finale, quindi vuol dire che dobbiamo salutarci. Però prima di salutarci, ricordiamo gli ultimi appuntamenti. Esatto. Vi ricordo lunedì 31 ottobre dalle 17 alle 18.30 CRM Piredio sarà in diretta con il programma On The Road con Roby D'Antoni dal supermercato PAM di Cefalù in occasione dell'estrazione del biglietto vincente del concorso organizzato per i clienti del supermercato PAM Ferdico di via Cirincione a Cefalù. Vi ricordo Mangia Italiano e Vivi Meglio, manifestazione che si svolgerà a Cefalù dal 28 ottobre all'1 novembre e CRM sarà in diretta da Piazza Duomo dalle 19 alle 22 di ogni sera. E inoltre vi ricordo un altro appuntamento, diciamo che per chi volesse imparare a cantare, anche a Cefalù si è aperta una scuola di canto, canto moderno e canto lirico. Per informazioni rivolgersi al 328-06-50625. Ho detto tutto, noi dobbiamo salutarci. Vi ricordo l'appuntamento di venerdì, sempre alle 17, alle 19 con Toc Toc. E poi dobbiamo ricordare inoltre, sì, che lunedì 31 ottobre ci sarà un cambio di programma, sì. Noi saremo dalle 15 alle 17 al posto di Robby e Robby sarà dalle 17 alle 19. Ho capito, c'è stato un cambio così in diretta, ce l'hanno suggerito subito, sì, in questo momento. Sì. Bene. E allora dobbiamo salutarci. Salutiamo. Adesso. E ci rivedremo e risentiremo venerdì. Buona serata, fate i bravi. Ciao CRMini. Avete ascoltato Toc Toc con Rosy e